Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ed eccoci pronti dal Groove Mastery Studio per la puntata numero 238 addirittura del Soundcheck di Radio 24, il suono della musica. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al mio compagno di avventure sonore e musicali, il comunicatore multimediale della nuova generazione, Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Ci tengo a precisare che tu sei laureato in scienze della comunicazione. Sì, è la mia laurea. In questo percorso radiofonico che cosa hai capito? Tantissime cose, come funziona la radio, come si ragiona per sicuro? Produrre, quindi per in qualche modo ti sono stato utile? Ovviamente sì, meno male. Lo riporterai allora nel tuo curriculum vitae? Sì, nella mia biografia. Nella tua biografia. Va bene, mio caro Francesco, so che poi sei molto attivo perché stai andando in giro a vedere i concerti, quelli che io non posso vedere perché poi sono impegnato nelle mie faccende private e musicali, però tu stai andando in giro, quindi io voglio consigliare anche agli organizzatori di festival di invitare direttamente Francesco Tromba per fare le sue recensioni personali. Sì, perché comunque la musica va vista dal vivo, la differenza fra i dischi certo. E il concerto live è veramente radicale quasi in alcuni momenti. È vero, e infatti anche per questo motivo molto spesso con gli squilli di tromba, rubrica, anche se a te non piace questo termine, che curi personalmente, annunciamo gli eventi più importanti. Però gli squilli di tromba per la prossima settimana li faremo domani. Invece io devo fare un annuncio, ovvero anticipare che probabilmente, dico probabilmente, nella seconda parte avremo a che fare con una band inglese molto forte, nuovo album appena pubblicato, tra l'altro il primo della loro carriera, ma noi siamo molto attenti alle novità. Si chiamano Nubian Twist, noi ve li abbiamo già presentati, ma l'album è stato pubblicato in Inghilterra e quindi ne parleremo con loro collegati, dico probabilmente, via Skype. Perché dico probabilmente? Perché abbiamo rimandato questa intervista ormai da quando? Da un mese? Sì, da 3-4 volte. Perché? Beh, certo, non per colpa nostra. Perché diciamo ci sono state delle penurie di comunicazione da parte... Ma no. diciamo le cose come stanno, perché hanno la testa fra le nuvole, sono giovani artisti... Ma secondo me anche perché sono parecchi, perché sono nella band 12, quindi sì, riuscire... Infatti noi volevamo parlare con la cantante, invece loro il collegamento lo fanno tutti insieme, mi sa. No, forse non tutti insieme, non penso, perché qualche tutti pezzo e l'abbiamo 12, perso per strada. È difficile riuscire ma a beccare. Ma Nubian ci sarà, perché lei mi piace, lei è sì, proprio un talento vero, una rapper, bravissima cantante. Mi hanno detto che ci sarà, però vedremo. Dobbiamo staremo verificare. A vedere, quindi probabilmente avremo Nubian Twist nella seconda parte dopo le news delle 20. Intanto, anche perché io l'airplay l'ho fatto, quindi se non ci sono loro, suoniamo la loro musica comunque. Ok, va bene. Vabbè, si perdono loro un'occasione di conoscerti. No. Allora, invece, direi di dare il via all'appuntamento con un artista che mi ha fatto impazzire questa settimana. Una giovane musicista, cantante cubana che ha trovato l'America dove? In Inghilterra, a Londra. Eh sì, perché poi è stata scoperta dal marpione Giles Peterson, quello della BBC, quello che lancia i festival. No, che in realtà cioè è stato lui che è andato a Cuba e l'ha scoperta. Poi l'ha portata a Londra. E se l'è portata a Londra. E si è portato la cubana a Londra anche per altri motivi? No, perché comunque diciamo non... Non è bellissima. Ma che hai capito? Scusami. No, si è portato la cubana a Londra per produrle anche il suo primo disco, no? Sì, sì. E quindi dà questa chance a Daimé Ora Sena, cantante di dimensioni abominevoli. Beh, una bella... Sì, abbastanza importante. Sta bella in carne, no? Sì, sì. Una bella faccia simpatica, un sorriso a 6.000 denti, scintillanti, per realizzare questo album che si intitola come... Havana Cultura, come si chiama? Il primo, quello in cui compare lei per la prima volta, era Havana Cultura, perché appunto era il viaggio di Giles Peterson a Cuba dove ha riunito tutto un mondo di giovani artisti, ma lo fa spesso, lo ha fatto con il Brasile. Sì, tra l'altro di qualsiasi genere musicale, cioè dall'elettronica. Hai capito? Beato lui, va a Cuba e si diverte e produce musica. Eh sì, tra l'altro anche c'è proprio un sito che si chiama Vana Cultura dove scoprirete tutti questi nuovi talenti, tutti giovani E cubani. infatti l'ho visitato anch'io, è anche molto ben fatto. Ci sono Sì, ci video di sono. riferimento, i ragazzi si raccontano Sì, mo. e niente, la possibilità di poter scoprire suoni nuovi, quelli che arrivano da Cuba, quelli che ci propone Daimé Oracena. Non dimenticate questo nome, perché questa ragazza è un vero talento, 22 anni, bravissima vocalist, tra l'altro una delle poche cantanti cubane appassionata di jazz, e infatti nei suoi brani noterete che si cimenta anche con lo scat, con l'improvvisazione vocale. Ne abbiamo parlato col grande maestro Bob Stoloff qualche settimana fa. E quindi Daimé Oracena fa la sua apparizione qui al soundcheck di Radio 24 con Don't Unplugged My Body. Daimé Arosena, che il nostro Francesco mi ha rimproverato perché l'ho annunciata con la pronuncia errata. Quindi si chiama Daimé Arosena, 22 anni, da Cuba, scoperta da Giles Peterson, che è andato in quella splendida isola e ha realizzato un album utilizzando tutti i giovani talenti cubani. Il brano era Don't Unplug My Body per questa ragazza, che sicuramente prossimamente approderà anche ai grandi festival, perché è una grande voce, una grande personalità. Sì, è anche tra poco uscirà il suo nuovo disco che si chiama Nuova Era, dovrebbe uscire proprio ai primi di giugno. Vedremo appunto che cosa ci proporrà perché finora sono usciti solo degli EP, dei singoli. Sì, quindi io non ho capito se è residente a Cuba o si è spostata definitivamente a Londra. Penso faccia avanti e indietro perché comunque è legata alle sue tradizioni, è una seguace della santeria. Secondo te, viste le dimensioni della signorina, in aereo prenota due posti? No, dai, in uno ci Ci entra, non è entra in uno, così. però se capiti a fianco a lei sei costretto a fare il viaggio tutto buttato da una parte. Però è una tipa molto solare, quindi magari ti fa Sì, un divertire sorriso parecchio. meraviglioso. Ho visto anche un'intervista, ragazza sulla quale anche noi del Soundcheck vogliamo puntare. Infatti credo che devo passare assolutamente un'altra traccia. Eh sì, perché una volta che la scopri è No, veramente anche perché lei ci superba. può fare anche una macumba, eh? Infatti, meglio non rischiare. Eh no, tu lo sai che è esoterica. Eh sì, come dicevamo, è legata alla santeria, che è praticamente la religione trasportata nel Nuovo Mondo dagli schiavi africani. Praticamente loro pregavano i santi cattolici perché appunto gli veniva vietato di praticare la loro In religione. pubblico, poi di Sì. nascosto. Pregavano comunque i propri santi, però raffigurandoli come se fossero i santi cattolici. E lo fate anche voi calabresi questo? Sì, diciamo anche noi abbiamo i nostri santi da venerare. Allora, Daimé Arosena al soundcheck con un brano intitolato Madres. Questo mi piace tantissimo. Un groove molto interessante, ipnotico, sul quale la nostra Daimé dà vita a una improvvisazione vocale di tutto rispetto. Eccola qui al soundcheck, Daimé Arosena. Arosena. Soundcheck, il suono della musica. Got the fire. Right time. Beh, in qualche modo abbiamo portato fortuna alla nostra Didi Bridgewater, che è balzata nei primi posti in classifica su iTunes per gli album di jazz anche nel nostro paese. Il brano Congo Square mi fa impazzire, questa nuova visione di Didi Bridgewater che celebra la tradizione del jazz di New Orleans con questo album, supportata da Irving Mayfield, trombettista, compositore e direttore della New Orleans Big Band. Una bellissima operazione discografica e un bellissimo album. Eh sì, non poteva che arrivare al primo posto in classifica. Tra l'altro l'idea che avevi proposto tu di fare un remix, secondo me potrebbe funzionare molto bene. Vediamo se accoglierà questa mia visione la nostra Didi Bridgewater, che tra l'altro è presente nel Soundcheck Airplay Music Award con la nomination proprio per Didi's Feathers. Eh sì, infatti lo abbiamo lanciato la settimana scorsa, questa nostra iniziativa di ringraziare in qualche modo gli artisti importanti dell'airplay del nostro soundcheck, a partire proprio da questa stagione, no? Dalla stagione 2014-2015. E quindi abbiamo suddiviso gli artisti che hanno regalato al soundcheck il suono del nostro programma, divisi per categorie, quindi R&B, black music in genere, jazz italiano, jazz internazionale, alternative music, che altro abbiamo fatto? Anche Best New Talent e repertorio in italiano, che comunque sono i nuovi talenti, sì, che tu ci hai presentato. Sì, che poi comunque riascolteremo nelle prossime puntate sicuramente. E apprezzo tantissimo anche da questi artisti ormai di fama internazionale il fatto di tornare alle origini, di celebrare Madre Africa. In qualche modo lo ha fatto anche Didi Bridgewater con questo brano intitolato Congo Square, che è la piazza di New Orleans dove un tempo venivano venduti gli schiavi africani, e celebra Madre Africa anche il pluripremiato bassista Marcus Miller, anche lui in nomination con Aphrodisian al Soundcheck Airplay Award. Il brano è I Can't Breathe, con la partecipazione di Motion Worker qui al Soundcheck. Check. Il suono della musica. Tornerà in Italia, credo, per una serie di appuntamenti a luglio la bravissima Shaina Steele, splendida voce, anche lei ha scalato le classifiche di discografiche internazionali su iTunes per il reparto jazz, l'abbiamo inserita con l'album Rise, anche lei fra le nomination del Soundcheck Airplay Music Award, il brano Sunshine Girl, che probabilmente è anche quello più pop di questa bellissima produzione. Sì, ma in realtà tutti i brani sono facilmente fruibili, si ascoltano molto piacevolmente. Ecco, visto che stavamo parlando del Soundcheck Airplay Music Award, vogliamo ricapitolare e ricordare agli amici di Radio 24 come funziona per votare, che cosa abbiamo fatto, no? Perché sennò, se non lo diciamo noi, chi lo fa? Sì, allora, a parte la giuria che sarà composta appunto da 10 esperti. Sì. Intanto lo voglio dire, questo Soundcheck Airplay Music Award lo abbiamo organizzato per celebrarci. Sì, per divertirci. Per anche divertirci, in realtà. Per divertirci. Per fare la voglia, diciamo, di fare anche una classifica che è storica, è in tutti, no? Mm. Anche ricordando Alta Fedeltà di Nick Hornby. È vero, bravo. E quindi abbiamo formato varie categorie, abbiamo inserito gli artisti, solo quelli che sono stati presenti nel nostro Airplay. E quindi una giuria di 10 esperti esprimerà il proprio giudizio e poi arriveranno ai vari social network a noi connessi, I voti anche del i voti pubblico. del pubblico. Sì, potete votare sia scrivendoci le vostre preferenze via Facebook o via Twitter o anche all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Naturalmente tu hai preparato la scheda. Sì, certo, è No, perché presente uno nei va social sui network. social network e non vede Certo, chi sono gli artisti in nomination, certo. come fa? È sempre in testa nelle nostre pagine Facebook. Bravo Tromba, perché tu sei dottore in comunicazione, quindi devi pensare a queste Eh cose. certo, bisogna Devi assolutamente. diffondere il messaggio. Allora, da Shayna Steele con Rice, lo ripeto, nomination per il Soundchecker Play Music Award, passiamo per chiudere questa prima parte a Eric Robertson. Perché vi propongo Eric Robertson? Perché è un artista R&B che con questo brano Lust for Love dà vita a un suono anche un po' latino, un po' cubano. Questo proprio perché le play di questa prima parte, che è iniziata con Daimé Arosena. L'ho Sì, detto bene? Arosena. Arosena, quindi partendo da Cuba, ci porterà poi all'Afrobeat dei Nubian Twist. Ecco. Sì, che anche loro sono in rizza per il Io soundcheck. per ora non vedo niente via Skype. Vabbè, vediamo se ci Ce la fa? rispondono No, tra perché un po'. hanno poco tempo. Abbiamo ancora il tempo per passare Eric Robertson con Lust for Love. Poi c'è l'informazione di Radio 24 delle 20. E poi, se loro non arrivano via Skype, andiamo avanti comunque. Ma sì, arriveranno, dai. Tu dici? Sì, arrivano, arrivano. Non lo so. Eric Robertson chiude la prima parte del soundcheck. Ci risentiamo dopo l'informazione delle 20, qui su Radio 24. Insane, tore my heart all apart, but let me just explain. We met through friends and nights alone. I'm loved her out her shell. She enjoyed mine as well. Sound check. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del soundcheck di Radio 24 e ce l'abbiamo fatta, siamo collegati finalmente con Londra via Skype e posso vedere le facce felici e divertite e contente dei protagonisti di una delle band di riferimento in questo momento a Londra. Li abbiamo attesi e li abbiamo anche presentati più volte, Francesco. Sì, li abbiamo inseguiti e finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo collegati con noi Nubian Twist, ladies and gentlemen, welcome. Welcome to the sound check. Hello, thanks for having us on Soundcheck. È bello, sono giovanissimi, molto felici anche. Sì, forse coetanei miei. Allora, io penso, Francesco, che te dovresti presentare la band in qualche modo. So, my friend Francesco will introduce you, eh? Allora, i Nubian Twist sono una band composta da 12 ragazzi che si è formata tra il Leeds College of Music e Londra. Sono una formazione particolare che riesce a proporre un ampio spettro di generi musicali all'interno dello stesso progetto: funk, reggae, dub, afrobeat, hip hop, rap, una sezione fatti da street brass band e la voce soul della cantante rapper Nubia Brandon. All'interno del gruppo ci sono musicisti, producer e DJ che hanno collaborato con Robert Glasper, DJ Yoda o Quantic, per dirne solo alcuni. Ascoltandoli si ha la sensazione di essere nel mashup di un bravissimo DJ, ma invece suonano tutti strumenti analogici, tranne gli effetti elettronici. Sono la band del momento in Gran Bretagna e il loro disco ha ricevuto gli apprezzamenti di diversi giornalisti musicali e di tantissime radio. Li ho ascoltati, ad esempio, diverse volte su BBC Six Music. Come si intitola l'album? WF 13. Ah, sì, questo è il titolo, Sì. difficilissimo. So, Francesco said that your music is a sort of mashup, but you play live, suonate dal vivo. May I say it's a sort of Afrobeat, funk and reggae at the same time. This is the concept? Go on, you take this one. Yeah, I think the genre of our music is kind of like the story of our live journey, really. Everything that we do is through like playing stuff live and playing different rhythms and different people that we've met from different walks of life, and it's all just kind of merge together really naturally, which is great because we all have our own, like, we all have like great knowledge about each genre, and it's just been really nice to accent all of them in different ways. Praticamente loro non hanno un vero e proprio concept, ma semplicemente sono loro 12 percorsi che vengono messi insieme, quindi ognuno ha un suo genere di riferimento, magari quindi anche un suo percorso di vita musicale, e cercano di metterli insieme suonando live. E questo è il loro prodotto, quello che poi andremo ad ascoltare successivamente. Ecco, la discografia non sta andando molto bene, voglio capire con l'attività concertistica invece come va. So you know that the discography, the official marketing about the music is not so good in this period. So how do you want to survive? Come volete sopravvivere? With the live stuff or not? Yeah, for us it always comes from the live show, and there's the band, and we're like a family, and it's definitely music that we love, and it comes from the heart. And if we can keep on doing that through our live shows and selling a few records, however we can make it, it's just about keeping the enjoyment going on as long as we can. Eh sì, quello che possono fare naturalmente è portarsi anche i dischi ai concerti, è lì che si vende la discografia per certe band, naturalmente stanno insieme proprio per fare musica dal vivo, e spero anche per loro che ci possa essere l'occasione di averli in Italia. Did you play in Italy? No, I don't think so. Not yet. So, do you want to come here? Volete venire in Italia a suonare? We will soon. We want to. We will. I'm sure it'll happen one day. But yeah, we'd love to, but not yet. gli piacerebbe tantissimo. So, Nubian, do you want to introduce Hypnotized? Hypnotized. All right. Okay. This is an old one for us. So, this was Hypnotized. This is Nubian Twist. Thanks for listening. Murder, we kill it with the sweetest sound. Eccola qui. Hypnotized, Nubian Twist al soundcheck di Radio 24. We kill it with the toughest sound. And we say murder, we kill it with that sound. Repetition is our ammunition, go further. Be sure to see your sorrows drown. Soundcheck, il suono della musica. Nostri ospiti al soundcheck, Nubian Twist, collegati via Skype da Londra, Figure Pneumatic, un'altra traccia tratta da questo album meraviglioso di questa band che dovremmo vedere prestissimo dal vivo anche in Italia. A Londra stanno spopolando. Sì, stanno andando veramente forte. Io ho una domanda per loro, vorrei chiedergli appunto quali sono le difficoltà per una nuova band per diventare famosa nel Regno Unito, ma anche in tutto il mondo, perché comunque loro hanno un sound che può sfondare in tutto il mondo. I want to ask, what are the hurdles of a new band to become famous in UK and all over the world? Because I think that your music is really great and you could go in all over the world with your music. I don't. Well, we're definitely not famous. This is like this is the beginning of our journey. This is the beginning of everything, and with the beginning comes like naivety and you know, big learning curves, and that's what this is all about. And we're really grateful that, you know, the start that we've had, but this is just like a glimpse of what we can actually all do as individuals, especially. I think we're hoping that as people get into more and more varied music via the internet, that there'll be a chance for our kind of underground music to come to the forefront a bit more. Ecco, diciamo che la loro aspirazione in questo momento non è proprio il successo, ma loro stanno facendo il loro percorso personale utilizzando internet, quello che dicevamo noi e che diciamo sempre noi per le band giovanissime. Sì, infatti noi li abbiamo trovati tramite internet, no? Ad esempio. Allora, Nubian Twist, so have you concert in London in the future or maybe around Europe? Avete concerti a Londra in giro per l'Europa? Yeah, we're hoping to possibly come to France this summer and start trying to get some more gigs in Europe, and We'd love to come to Italy at some point if we can, but at the moment we've just been touring our album around England. Ecco, stanno promuovendo l'album, prossimamente saranno in Francia per dei concerti e io farò di tutto per portarli in Italia perché mi piace tantissimo questa band. I'll do my best to promote your music in Italy and I hope to see you live here because we have fantastic jazz festival, we have a lot of music scene ready for you in this country. Abbiamo dei jazz festival e grandi festival che possono ospitarli. Allora, Nubian Twist al soundcheck con un altro brano, si intitola Straight Lines. Soundcheck, il suono della musica. Questo è il brano che ci ha fatto conoscere, ci ha fatto incontrare via internet, anche con una bellissima produzione video su YouTube. Il brano si intitola Workhouse e quindi Nubian Twist. The clip is fantastic on YouTube of Workhouse. But I want to know something about the music scene in London right now. Qual è la scena musicale a Londra in questo momento? I think it's the most interesting music scene in the world right now. Why? You know why? I think it's really debatable. There's so much great music in London and so many amazingly talented people, and it's obviously got such a big establishment with all the different venues that are putting on different acts. But I have met equally just as talented people, if not more, because they've come from poor areas outside of London, and you know that these people have got like nothing to do in these towns that like are really dead end roads. So they become these great things and then they move to London. So I find that most people that I've met, I know a lot of musicians that are born and bred from London, but a lot of people have come from outside of London and moved to the city to come for like a big opportunity, which isn't always there. Ecco, la scena a Londra è molto interessante, ma anche perché a Londra arrivano molti ragazzi che vengono da aree più povere nei dintorni di Londra, ma che hanno dei grandissimi talenti e probabilmente anche per questo motivo c'è una sorta, non voglio dire di competizione, ma di confronto positivo che fa crescere un po' quello che succede a New York. Sai, arrivano musicisti da tutto il mondo e il livello è sempre più alto. Sì, quindi aumentando la competizione si alza il livello di diretta conseguenza. Assolutamente sì. Allora, Nubian Twist, io sono stato molto felice di incontrarli, di averli i nostri ospiti al soundcheck e direi di proporre subito questo brano Shake Me Down, 8 minutes 23 seconds of great music. Do you want to introduce it? Okay, this next track is called Shake Me Down, Nubian Twist. Thanks for listening. Soundcheck, il suono della musica. Beh, intanto per restare sulla scia di Nubian Twist, veramente carini questi ragazzi, il sound di Nika con Book of Job, quindi insomma siamo rimasti sulle sonorità reggae per chiudere in bellezza quest'altro appuntamento del Soundcheck. Ti vedo soddisfatto, mio caro Francesco, hai fatto di tutto per avere i nostri ospiti Nubian Twist, ci sei riuscito e sei anche contento perché la signorina Nubian non è male. Sì, è anche grande artista, quanti anni ha? 22, 23? Sì, una cosa del genere. Mamma mia, e canta e rappa in questa maniera. Sì. Che meraviglia, che talento, e anche una bella ragazza, lo voglio dire. Sì. Tra l'altro abbiamo appena sentito Neka che sarà il 21 luglio qui a Roma all'Eutropia Festival. Ah, e anche lei bisogna andarla a vedere. Sì, assolutamente. E sì, inizia la stagione estiva con i grandi festival, i grandi e piccoli appuntamenti di musica. Il nostro paese sarà invaso da musicisti di varia portata. Ricordiamo, per esempio, lo voglio ricordare, ma non c'è bisogno perché è un festival oramai molto seguito, che è Umbria Jazz Festival, ma ci sono altri appuntamenti per la prossima estate da non perdere. Abbiamo già lanciato anche dei concerti interessanti all'Auditorium Parco della Musica con degli artisti che a noi piacciono molto, e quindi il formidabile D'Angelo, e vi raccomandiamo di seguire questa performance di uno dei grandi protagonisti della Black Music di oggi. Sì, ci saranno anche... Quando c'è? Il 6 luglio, mi pare. Il 6 di luglio, sì, ho già il biglietto. Allora, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15.30 con la prima parte, parleremo ancora del Soundchecker Play Music Award, e poi la seconda parte di domani avrà come ospite un bravo musicista italiano che si sta affermando in giro per il mondo, anzi forse è più spesso impegnato a Parigi che in Italia. Vi stiamo parlando del bravissimo Luca Aquino, che ci presenterà Over Doors, nuovo album per la Took Music del collega Paolo Fresu, che ci racconta questo strano connubio fra jazz e la musica dei Doors. Sì, magari uno inizialmente potrebbe appunto rispolverare la vecchia polemica tra gli appassionati di jazz che schifano un pochettino i rockettari, però in questo caso... Vabbè, ma sono cose antiche, sì, dai. Cose vecchie, però ancora ci sono dei e dei ci sono gli, gli integralisti del jazz. Sì. Va bene, vanno bene anche loro. Allora, Francesco, chiudiamo, li sento in sottofondo, senti questo suono? Lo senti? Sì, sì. Che meraviglia, Fat Freddy's Drop, chiudono il soundcheck con Blackbird. Ci risentiamo domani, a tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba. Sleep, 'cause I know they'll be watching me.